Capitolo 29. Poi Giacobbe si mise in cammino e andò nel paese degli orientali. Egli vide nei campi un pozzo e tre greggi di pecore accovacciate lì vicino. A quel pozzo, infatti, si abbeveravano le greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Dopo che tutte le greggi si erano radunate là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo, abbeveravano le pecore, poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse ai pastori: «Fratelli miei, di dove siete?» Quelli risposero: «Siamo di Caran». Egli disse loro: «Conoscete Labano, figlio di Naor?» Ed essi: «Lo conosciamo». Egli disse loro: «Sta bene?» Quelli risposero: «Sta bene. Ecco Rachele, sua figlia, che viene con le pecore». Egli disse: «Ecco, è ancora pieno giorno e non è tempo di radunare il bestiame. Abbeverate le pecore e portatele al pascolo». Quelli risposero: «Non possiamo finché non siano radunate tutte le greggi. Allora si rotola la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveriamo le pecore». Mentre egli parlava ancora con loro, giunse Rachele con le pecore di suo padre, perché era lei che le portava al pascolo. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, e le pecore di Labano, fratello di sua madre, si avvicinò, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e abbeverò il gregge di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele, alzò la voce e pianse. Giacobbe fece sapere a Rachele che egli era parente del padre di lei e che era figlio di Rebecca, ed ella corse a dirlo a suo padre. Appena Labano ebbe udito le notizie di Giacobbe, figlio di sua sorella, gli corse incontro, l'abbracciò, lo baciò e lo condusse a casa sua. Giacobbe raccontò a Labano tutte queste cose e Labano gli disse: «Tu sei proprio mie ossa e mia carne». Così abitò presso di lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe: «Perché sei mio parente, devi forse servirmi per nulla? Dimmi quale deve essere il tuo salario». Or Labano aveva due figlie. La maggiore si chiamava Lea e la minore Rachele. Lea aveva gli occhi delicati, ma Rachele era avvenente e di bell'aspetto. Giacobbe amava Rachele e disse a Labano: «Io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore». Labano rispose: «È meglio che io la dia a te piuttosto che a un altro uomo. Resta con me». Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni a causa del suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano: «Dammi mia moglie, perché il mio tempo è compiuto, e io andrò da lei». Allora Labano radunò tutta la gente del luogo e fece un banchetto. Ma la sera prese sua figlia Lea e la condusse da Giacobbe, il quale si unì a lei. Labano diede la sua serva Zilpa per serva a Lea, sua figlia. L'indomani mattina, ecco che era Lea. Giacobbe disse a Labano: «Che mi hai fatto? Non è per Rachele che ti ho servito? Perché mi hai ingannato?» Labano rispose: «Non è usanza da noi dare la minore prima della maggiore. Finisci la settimana nuziale con questa e ti daremo anche l'altra, per il servizio che presterai da me per altri 7 anni». Giacobbe fece così. E finì la settimana di quello sposalizio, poi Labano gli diede in moglie sua figlia Rachele. Labano diede la sua serva Bila per serva a Rachele, sua figlia. Giacobbe si unì pure a Rachele e amò Rachele più di Lea e servì Labano per altri 7 anni. Il Signore, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile. Lea concepì, partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: «Il Signore ha visto la mia afflizione. Ora mio marito mi amerà». Poi concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: «Il Signore ha udito che io ero odiata e mi ha dato anche questo figlio». E lo chiamò Simeone. Concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: «Questa volta mio marito sarà ben unito a me, perché gli ho partorito 3 figli. Per questo fu chiamato Levi. E concepì di nuovo, partorì un figlio e disse: «Questa volta celebrerò il Signore». Perciò lo chiamò Giuda. Poi cessò d'aver figli.